tutto pulito a modino. Amici di Runtime, buonasera e bentrovati ancora una volta per una liveissima di OGM oltranzisti, gastricamente maleducati. Mi sono imposto di farlo bene dopo che ho visto che Pizzi mi ha umiliato. Prima di iniziare e prima di salutare i compagni di avventura, i compagni di merende che questa sera saranno in diretta con me, vi lascio con un piccolo promo, perché abbiamo deciso che OGM vuole fare la radio seria e quindi incominciamo ad incastrare una serie di appuntamenti importanti che è giusto che il nostro pubblico conosca. Ciao a tutti, sono Davide Gatti e tutti voi mi conoscerete per il podcast Survival Hacking. Volevo informarvi che da poco è nato l'omonimo canale su YouTube, dove vi provo a raccontare le mie avventure, mettendoci la faccia e anche le mani. Dai, vi aspetto. Il canale lo trovate su www.survivalhacking.it. Vi aspetto numerosi. Quindi eccomi qua, bentrovati amici di Runtime all'ascolto di OGM in modalità, come l'abbiamo definita altre volte, Covid Edition, perché siamo qui per farvi compagnia tutti i giorni della settimana in vari orari con delle dirette, che siano OGM, che siano i programmi enogastronomici che si sono aggiunti al palinsesto nelle ultime settimane, quindi anche Il Vino Lo Porto Io con gli interventi enologici di Alex e del suo team, così come anche MDB Summer Radio per fare un po' di musica soprattutto la sera, così come tanti altri appuntamenti, le rubriche di cucina e di musica che stanno curando per esempio Clelia e sto perdendo la voce, scusate, e Michela, ma tante altre cose. Ovviamente, per essere pronti e sul pezzo, ci alterniamo ai microfoni e siamo tanti, non siamo mai pochi e non siamo mai da soli. Con me questa sera ci sono gli amici di sempre, gli amici ormai di un percorso che va avanti. Il primo in assoluto è uno degli altri padroni di casa, di questa piccola casa di OGM, che è Marco Gualdi. Ciao, ben arrivati a questa edizione. Oggi c'è pioggia, c'è tanta pioggia, quindi sul campo è completamente bagnato, però hanno fatto delle prove prima, qualche minuto fa, per vedere se era tutto praticabile, hanno fatto rimbalzare un cane e sembra che sia tutto quanto regolare, si possa proseguire. Quindi ti stavo giusto per domandare se le palle rimbalzano, visto e considerato. No, si usano i cani in questo caso, rimbalzo, cioè vanno bene, posso darvi giusto, ecco, questo anticipo, che il Lettraudo ha deciso di chiudere perché sono le 6, quindi se ne sta andando con una mascherina a forma di becco di paperino, quasi da monatto, diciamo così. No, becco, sì, di paperino no, bianco, no, becco di paperino è questo, diciamo trapezoidale come il becco di paperino, dai. Che bellissimo. Vabbè, io voglio solo precisare una cosa. Ok, volevo solo precisare che nella realizzazione di questo programma nessun animale è stato maltrattato o verrà maltrattato. Nel caso dovessimo maltrattare qualcuno, saranno rigorosamente esseri umani. Detto questo, saluto anche gli altri amici che ci faranno compagnia questa sera, i nostri consulenti di tutto un po'. Abbiamo, adesso li presento insieme e poi vediamo chi parla per primo. Siete pronti? Francesco e Puccio. Faccio il cavallo di Frisi. Ah, pensavo tipo Blucher. Ma non mi viene bene il cavallo, dai. Viene più a capra. No, questa pecora. A proposito di animali che non si maltrattano, quindi non mi maltrattate. No, ripeto, maltrattiamo solo esclusivamente esseri umani. Ben trovato Francesco, grazie di essere con noi questa sera. Grazie anche a Puccio. Che dici, Carmine? Piove anche qui, ragazzi, e piove anche parecchio. Però guardate, abbiamo dei lati positivi, perché io purtroppo ho il palazzo ingabbiato da una struttura, quella che usano i muratori, da delle impalcature, perché ci dovevano rifare la facciata. Almeno c'è una ragione d'essere, non piove verso i vetri. Okay, guardiamo il piccolo. Cioè, vedi che bello, ormai stiamo imparando tutti quanti a cercare i lati positivi nelle cose che non hanno lati positivi. Ma guarda, questa me la sono dovuta scavare per trovarla oggi. Sì, anche perché c'è il cemento sopra le pietre, per cui per una questione fisica qualsiasi cosa un lato positivo, quindi interessante. Anche feltri? Sì, che non gli è rimasto che nemmeno che in giro de palazzo, probabilmente è quello il lato positivo. Vabbè, sento come dei beep in sottofondo, come ma se qualcuno si stesse censurando. Ragazzi, fatemi salutare anche gli amici che hanno già iniziato. Scusa Marco? Sono io che entro e esco dalla conversazione, non facevate caso, insomma, purtroppo la linea è quella che è. Eh beh, dal Cibali sappiamo insomma che la questione è complicata. Volevo salutare gli amici in chat che ci hanno già iniziato a fare compagnia. Vedo in particolar modo Zio Mischi e Ciro Capasso. Ci dovrebbe essere anche Rizzard, perché prima parlavamo e credo che ci stia ascoltando. E poi ovviamente una lunga pletora di, come li chiamo sempre io, pavidi, che non ammetteranno mai, ma che stanno ascoltando OGM. Sperando che oggi non parla Conte, vero Carmine? Non è che ci viene e ci interrompe la diretta così come fa sempre lui? Oggi no, poi tra l'altro sta parlando stranamente principalmente in alle camere, quindi oggi dovrebbe essere occupato. Ok, diciamo forse gli hanno fatto notare che le dirette Facebook sono, come dire, appannaggio di un altro, di quello che in questi giorni si sente un po' intellettualoide, non si sa poi in base a quale presupposto, però insomma... Il Clark Kent della bassa bergamasca. Esatto. E vabbè ragazzi, ma sapete che stavo notando che voliamo nel numero di nuovi follower da quando stiamo facendo questa forma di intrattenimento Covid Edition? Ragazzi, ci sono 3147 follower su Runtime e se non ricordo male... Neanche 10 giorni fa abbiamo festeggiato i 3000. Sì, ma quanti all'inizio del lockdown abbiamo guadagnato? Più di un centinaio all'inizio del lockdown? Più di 200. Siamo 3000, 3200, però quanti ne sono guariti? Sì, infatti, questo dico ancora adesso. Questa è la cosa, la cosa importante di questi. Ancora qui, dobbiamo raggiungere il picco, secondo me, quindi almeno dal punto di vista regionale qua, non so. Stiamo aspettando di fare l'app per saperlo. Ha detto che ce la faceva Alex, prima o poi sarà pronta. Sì, però sarà disponibile. Sarà disponibile solo per iOS. Sì. Che almeno voglio dire, farla che funziona su iOS sarebbe un punto di partenza, visto che il problema di quelle che hanno, che hanno proposto in molte nazioni finora è proprio che non possono funzionare su iOS per vari motivi di sicurezza. Comunque, diciamo, non facciamo questo approfondimento tecnico. Invece, cerchiamo subito di entrare un pochino, se volete, a bomba sui temi di oggi. Il primo in particolare, avete visto questa locandina? Devo dire che ogni volta che il governatorissimo De Luca proferisce parola, noi lo sappiamo, lo stimiamo amabilmente, è una gioia per le orecchie, no? Nella sua, come dire, nella sua dialettica, nella sua ars oratoria, che è sicuramente sopra la media nazionale, ma è anche, diciamo, teatralissima, a chi non piace, almeno tra di noi. Ieri però se n'è uscito con qualcosa che è stato epico per due motivi. Il primo è che sostanzialmente, come dire, ha rimesso al suo posto Bruno Vespa e anche il governatore, l'omologo lombardo, quindi Fontana. Io devo dire che ho visto soltanto un estratto, io mi guardo bene di guardare Porta a Porta, qualora, anche se c'è il mito De Luca, io faccio un'altra cosa. Ieri sera stavo guardando dei beceri cartoni animati su Netflix, ma di sicuro non avrei visto Porta a Porta. Però detto questo, a una domanda abbastanza, come dire, capziosa di Bruno Vespa, che in qualche modo aveva quasi il come dire, il recondito significato di cercare di mettere in difficoltà il sud nei confronti del nord, perché ci stanno parlando in tanti, per cercare di riequilibrare insomma la brutta figura, e però insomma lui da par suo, senza scomporsi, ha messo al suo posto lui, gli ascoltatori e probabilmente anche, anche Fontana. Ditemi voi cosa ha detto prima e dopo Fontana, perché non lo so, però veramente è stato epico. Ma nel suo essere epico poi ha tirato fuori questa perla di cultura sulla quale noi tutti poi ci siamo, come dire, costruiti un pizzico di nozionismo in più, perché chi di noi sapeva prima di ieri che cosa fosse un cavallo di Frisia? Intanto saluto anche Leo Vargion che ci saluta e vi domando, ragazzi, questi cavalli di Frisia, ma quanto vanno affascinato? Quando te le trovavi nelle versioni di latino non tanto, anche perché prima avevano un altro nome, quello che ricordo, cioè, ho fatto mente locale dopo averglieli sentiti nominare dietro ieri. In effetti su Bavetto devo dire, anche io sono stato colto in contropiede, ho detto, ma che cazzo ha detto? Poi ho avuto tipo un'illuminazione, mi sono ricordato il liceo classico e mi sono ricomparsi i cavalli di Frisia davanti agli occhi. Ho dovuto chiedere a mia moglie, che purtroppo anche lei è uscita dal liceo classico, se li ricordava. Ma quello che brutta mi ha sconvolto malattia, brutta malattia. Difatti io sono guarito subito, direttamente l'anno dopo. La cosa divertente è stato vedere che proprio Fontana non ci aveva capito un cazzo, cioè è andato in crash era bellissimo, è andato in blue screen, cioè lo hanno perso completamente. Difatti poi De Luca ha debordato per 5 minuti senza che nessuno lo interrompesse. Sì, nessuno, ma secondo me anche volendo non hanno il coraggio. Beh, vorrei vedere. Anche perché esce il lanciafiamme. Comunque, ragazzi, abbiamo i dati morti gualiti. Sì, infatti, ti avrei chiesto di preparare l'argomento, ma proprio flash dopo. Volevo un attimino l'opinione anche di Francesco e di Marco sull'esploit di ieri e sui cavalli di Frisia, ovviamente. Io l'ho seguito in diretta, però devo dire la verità, anche perché stavo facendo un po' altro mentre ascoltavo, vedevo. Cioè, mi ha colpito, comunque avevo sentito quando ho iniziato un pochino ad alzare la voce, intimare, dice guarda non vogliamo mettere cavalli di Frisia altro, bloccare tutto, però comunque un pochino dobbiamo stare un altro po', guardate almeno le regioni che hanno ancora 1000 case al giorno, testuali parole, mi era sfuggito proprio poi stamattina quando ho acceso il cellulare ho visto cavalli Frisia dovunque, allora lì sono andato a rivedere e ho detto cazzo questa cosa mi era sfuggita in realtà, perché anche perché giustamente io sapevo cosa fossero concretamente, perché li abbiamo visto tutto, anche semplicemente che motro. Ciao Pietro. Però non sapevo chi si chiamassero così, quindi cioè, una cosa in più. Quindi ringrazio De Luca anche per questo, per avermi acculturato ulteriormente. Cioè, non finisce. Ma la cosa bella è che non sta finendo di sorprenderci. Tu dici, ok, dopo questa non ne può fare altro. Dopo lanciafiamme non ne può fare altro. Dopo questa, ogni volta ne esce una nuova. È una sorpresa ogni volta. Quindi abbiamo grosse aspettative da parte sua. Ad alza l'asticella sempre un pelino in più. Quindi. Diceva la mia professoressa di lettere, si impara fino alla bara, e questa cosa è vera. Bellissima, mai sentita, ma la segno subito, anzi me l'ha tato da qualche parte. Esatto, ma la cosa bella che secondo me impreziosisce ulteriormente la performance di ieri sera è che se in altri momenti lui si può essere in qualche modo preparato la parte, mettiamo così, il coup de théâtre, ieri era in diretta, ragazzi, quindi per quanto si possa anche essere, come dire, messo da parte determinati nozionismi da usare nel momento giusto, lui ha fatto un monologo di 5 minuti in diretta che era assolutamente inoppugnabile. Marco, io non so minimamente di che cazzo state parlando, però sono d'accordo con De Luca a prescindere, e ci mancherebbe altro. Vabbè, ti consigliamo allora di andarti a riprendere l'estratto di questi 5 minuti, perché tra l'altro lo trovi sul nostro gruppo ufficiale Morti di Bestemmie Open, che ricordiamo anche agli amici che ci stanno ascoltando, è un gruppo Telegram nel quale potete entrare anche voi per interagire con noi. Vi garantisco che non distribuiamo quotidiani pirata, quindi non lo chiuderanno mai, ecco, non vi preoccupate. Saluto anche Davide Gatti, che dice buongiorno, buonasera Davide. C'è anche Simone Pizzi, che si sta palesando nell'entità Runtime Radio, credo sia lui. Che intima, allora lavorate, soltanto che non capisco se è un'affermazione, un anatema, non so bene cosa volesse dire, quindi poi se vuole entrare a gamba tesa in diretta ha gli strumenti per farlo. Detto questo, quindi vabbè, Marco, tu non hai visto quindi questa piccola perla. Io ammetto, ripeto, l'ho recuperata perché non avevo nessuna intenzione di guardare Bruna Vespa in diretta né ieri né mai. Però, insomma, voglio dire, capite qual è il, come dire, il valore aggiunto di De Luca, al di là diciamo di tutte le altre cose che si possano dire, è avere una dialettica, una comunicazione, ma anche dei concetti da esprimere contro i quali il politico medio non è in grado di obiettare. Cioè, io mi immagino una tribuna politica, un contraddittorio con moderatore, uno contro uno all'americana, in cui ci fossero De Luca e un qualunque altro politico italiano in attività. Una parentesina, cioè De Luca che sta ancora aspettando Salvini da suo tempo, insomma, quando gli disse parliamone a quattro occhi quando dovevano fare le elezioni. Ma se ne bada bene, tra l'altro. Grazie. Ma infatti volevo dire, scusa, proprio sì. Questo, chi avrebbe secondo voi il coraggio di affrontarlo in singolar tenzone, e chi poi avrebbe le capacità di, come dire, di essere al passo con un avversario di questo genere? Cioè, chi affronterebbe De Luca disarmato, dice? di dialettica, però dai, facciamo questo ragionamento. Cioè, in mutande, tipo quando ti dico, quando ti colpiscono a Ghost and Goblins, praticamente. Sì, esatto, quando ti tolgono l'armatura. Sì. No, oggettivamente, cioè, l'unica persona che ha questo tipo di approccio e che comunque è confinata nelle politiche locali è Emiliano, ma Emiliano e De Luca tendono ad andare d'accordo, quindi non me li vedo a discutere uno contro uno. Poi di altri sindaci più o meno pittoreschi siamo pieni. Aspetta, però Carmine, io non parlo di uno scontro, io parlo di un dibattito politico, immaginiamo in campagna elettorale, durante la quale ognuno dei due deve tirare fuori argomenti concreti per farsi eleggere e comunque sia per, come dire, per dominare sull'avversario nelle tematiche. Cioè, al di là degli argomenti, come lo affronti uno che ha una presenza teatrale di quel livello? Cioè, veramente rubato al palcoscenico, De Luca. Ma sì, detto un po' Gassman, un po' Pertini, un po' tante cose in una. Ah, c'aveva ragione Verdone, c'ha dei tempi comici meravigliosi e poi si vede che sono naturali, non sono frutto di studio. Come lo affronti uno così? Eh sì. Lobby, tu che dici? Ma la sua criptonite ancora la dobbiamo trovare. Probabilmente c'è ancora comunque fresca la ferita del fatto del cantiere della piazza a Salerno, che voleva fare piazza della Libertà, della Repubblica, non mi ricordo, quella alla fine del corso che è stata sequestrata più volte. C'è ancora fresca quella, che cavolo. Beh sì, noi l'abbiamo sempre detto che poi alla fine, da un punto di vista di, diciamo, del personaggio, tanto di cappello, poi le sue ombre politiche e anche, diciamo, gestionali ce le ha, perché comunque nere come la pece. Però ha detto una cosa, lui c'è stato il processo, quello credo aveva a che vedere con dei parcheggi interrati a Salerno, in cui se ne poteva uscire con la prescrizione, pretese di farsi processare, cioè decise di non avvalersi e di andare a giudizio e vinse. Vabbè, perché evidentemente aveva le carte in mano per farlo. Sul resto non sappiamo. Comunque non mi pare uno che si nasconde più di tanto. Poi, per carità, c'è una, se qualcuno di voi ha mai letto Transmetropolitan di Warren Ellis, che parla di giornalismo, a un certo punto, cioè, è fantascientifico, a un certo punto il giornalista protagonista scoprono che c'è questo nuovo politico su cui non riescono a trovare niente e scopre che è un clone creato da zero, e lui si rivolge a questo medico dicendo: beh, ci voleva la scienza per costruire un politico con un passato pulito, quindi probabilmente non esistono neanche. Eh sì, forse no, il tuo non essere pulito che ti porta per difesa a diventare un politico. Il caso emblematico, sui casi emblematici, è Berlusconi. Non è sceso in politica perché si sentisse un filantropo, uno statista o un salvatore della patria. Doveva tenere in ballo le sue aziende da accuse di, diciamo, di reati finanziari di vario tipo. Cioè, doveva evitare di portare innanzitutto i libri in tribunale. Vieni al microfono, Puccio. Scusatemi, stavo dicendo, sì, doveva evitare di portare i libri in tribunale. Sì, tra le altre cose, servivano giusto due o tre leggine ad hoc per riuscirci. Senti, ma a proposito di leggine ad hoc, quelli che non sono particolarmente avvezzi, almeno a parole, a determinati compromessi, a determinati atteggiamenti, come dire, ad personam, eccetera, alla fine si stanno sgretolando. Il Movimento 5 Stelle sta cacciando gente su gente, è arrivata anche la volta di Giarrusso e dell'altro che non ricordo. È anche tornato Di Battista. Il famoso sottomarino, ci dicevi l'altro giorno, no? Il sommergibile, come lo chiamavano gli amici. È improvvisamente rispuntato, ed era meglio se secondo me rimaneva dov'era, dato che ha fatto questi pronostici geopolitici abbastanza azzardati, dando anche consigli su con chi ci dovremmo schierare. Sì, sì, dovremmo diventare i succubi della Cina perché vinceranno la terza guerra mondiale, quindi se noi ci mettiamo in modalità Zerbino per loro, poi ci danno l'avanzo del riso. Fondamentalmente ha detto questo. Ma è più o meno lo stesso ragionamento che credo sia stato fatto prima di entrare in asse con il Giappone e con la Germania nella seconda guerra mondiale. Cioè, fatto, vabbè, questi vinceranno, no? Schieriamoci con loro. Eh certo, la versione cinese di Axis and Allies proprio. Vabbè, che ve devo dire, ragazzi, tanta paura. Vabbè, ma secondo me lui ripeterà la parabola consueta, cioè arriverà, dirà quattro cazzate, si renderà conto che queste cazzate lo hanno fatto arretrare nelle preferenze invece che avanzare, e sparirà, si farà un altro viaggio in Iran, già che c'è. Ma secondo me lo fa apposta per trovare una scusa per viaggiare. Secondo me va a sparata, poi va a vedere qua, mi sa che è meglio che se ne va. Secondo me se ne andrà in Antartide la prossima volta, boh, non lo so. E forse è meglio se va dove non c'è molta, si sgamerà qualche civiltà sconosciuta, tipo le montagne della follia, che cacchio ne so, boh. Sì, lo sconosciuto Kadat. Esatto. Porterà qualche shoggot. Ragazzi, intanto leggevo un commento di Zio Minsky in chat che si riferiva a De Luca, quindi piccolo passo indietro, diceva perché De Luca da sindaco non firmava niente, non si presentava in giunta, quindi evidentemente insomma qualche scheletrino nell'armadio, come dicevamo, ce l'ha anche il più ovvio più teatrale. E vabbè ragazzi, comunque. Però prima non ne ho approfittato, prima mi ha dato un gancio proprio il buon Gualdi, che ha citato sempre il nostro carissimo Salvini, che mentre ieri c'era la diretta e capitava quello che è capitato, mi facevano notare, cioè c'era un ragazzo che mi faceva notare che stava seguendo per prenderlo per il culo una diretta su Instagram di Salvini, in cui faceva vedere tipo che faceva l'impasto a casa col lievito madre, che poi faceva vedere tipo le fragole della Sicilia, mi ricordo della Sicilia, sono buonissime quando le prende, e il limoncello e quelle che iniziava a bere, roba. Cioè, il mio amico gli aveva scritto, ha preso pure la chitarra a un certo punto, il mio amico, ma è andato avanti per un'oretta, ma di notte, dopo mezzanotte, a un certo punto gli ha scritto, cioè, lo screenshot mi pare, dai, suonaci un po' bella ciao, no bella ciao no, cioè, che pezzo di merda. Sì, sì, beh, ma insomma, ragazzi, tra l'altro stanno cercando in tutti i modi, magari a lui questo frega un po' meno, questo è più un cavallo di battaglia di Fratelli d'Italia e di Ignazio e delle varie correnti ex missine, di trasformare il 25 aprile con qualunque pretesto in un evento che ricordi qualunque cosa tranne l'anniversario della liberazione. Giorno di ringraziamento italiano, Thanksgiving Day italiano. La qualunque festa del cosa. Grazie. Eh sì, va bene. Esatto, va bene anche con quello. Tante quaglie. Il concetto che vogliono, insomma, far passare è proprio questo. Cioè, l'importante è che il 25 aprile diventi il giorno di qualche altra cosa, ma non della, ma non della liberazione. Addirittura sostituire la canzone. Scusa, ma di qualche altra cosa. Sì, qualunque cosa. Si chiamerà festa di qualche altra cosa, cioè proprio così. Ah, però, ok, però, io insomma ci sto. Volevo votare per la festa della contea, però vabbè. Poi è bellissimo togliere la canzone simbolo, insomma, della liberazione, che è bella ciao, e sostituirla con cos'era? La canzone del Piave, cosa voleva? Che non so neanche che cos'è. Piave mormorava calma e placida dal passaggio dei primi fanti il 24, ma eccetera eccetera. Non ah, quindi insomma, cantare, neanche non volete sentirmi caso. Cantare. No, roba dell'altra guerra, quindi fate un po'. Vabbè, cioè, perché siamo sempre sul pezzo qui, eh. E vabbè, ragazzi. Sapete che ieri sono stato aggredito da dei fan di Marco Carta su Twitter? Ah, perché esistono? Non so, manco pochi, ho preferito cancellare un tweet, cosa che non faccio mai per evitare di essere poi segnalato in maniera assolutamente arbitraria da una schiera di ragazzini avvelenati. Fondamentalmente io ho fatto una battuta assolutamente di satira, riportando un trafiletto, il titolo di una news in cui sostanzialmente si diceva che Marco Carta ha distrutto per la perdita della nonna, sei la persona a cui, poi citazione di Marco, parole sue, sei la persona a cui devo di più. E io ho citato tutto questo titolo di notizia col suo virgolettato, e sotto ovviamente il riferimento satirico e sarcastico, che era: ammazza, ma perché? Ma quanto gli hai rubato? Ovviamente riferimento alle vicende in cui è stato coinvolto qualche mese fa sulla storia delle magliette rubate, che poi ovviamente lui è stato assolto, lo dobbiamo dire, quindi insomma accusare di aver usato una sua amica come capro espiatorio lascia il tempo che trova, perché è stato assolto, quindi amen. Però è satira, di conseguenza ti può non far piacere, non lo leggi, mi ignori e vai avanti. Invece no, sono stato blastato da vari, tra l'altro io non ho neanche taggato nessuno, di conseguenza solo perché questo post è finito in una timeline sono arrivati 3-4 utenti che anche nello username avevano l'essere assolutamente la fanbase di Marco Carta, che mi hanno blastato, hanno chiamato alla fatwa contro di me, una cosa che penso che Salman Rushdie in confronto ne ha passate di meno, Oh, maron. Per Marco Carta questo. Esatto, per Marco Carta, questo grandissimo talento della musica leggera italiana. Quindi, scopriamo che Marco Carta c'ha la bestia come Salvini. Guarda, vabbè, che ti devo dire. La bestia che gli dice: tu domani dalle 11:30 fino all'1:30 fai vedere i cazzi tutti a casa. Lui proprio è esaurito a un certo punto. Ti bevi il limoncello. Che ha iniziato a trincare tutto. Proprio ha detto: dai, trincati. Perché ha detto: aiù, questa cosa qua non la voglio fare. Ha detto proprio: c'è sta faccia di dire, aiù, mi costringono a fare. Io voglio andare a dormire adesso. Dai, a proposito di andare a dormire, è trending topic. Guardate che è difficile fare il Salvini oggi, cioè non è facile, non è facile, quindi cioè, un po' di rispetto per questa gente che fatica, insomma. Non riesco neanche a replicare a questa affermazione, guarda. No, volevo dire, ragazzi, a proposito di andare a dormire, approfitto per ricordare a tutti, poi lo facciamo anche in chiusura di puntata, stasera non andate a dormire perché alle 23:30 ci sarà una live corale che è Runtime by Night, ovviamente ostata dal padrone di casa Simone Pizzi, ma con una lunga serie di presenze inquietanti o meno. E cercheremo, insomma, di allietare anche le ore più... le ore più... Dammi un aggettivo, Francesco, un aggettivo per le ore più notturne. Mazzo. Le ore più buie. L'ora più buia è quella che stiamo vivendo da due mesi a questa parte. Però volevo dare una connotazione, non so, un po' più tra il malizioso e lo stimolante per queste ore. È notturna, c'è tante di quelle declinazioni. E comunque ti sei dimenticato che in realtà... O l'hai detto o mi sono distratto, scusa, perché prima delle 23:30, cioè comunque oggi è una giornata ricchissima di runtime, perché alle 21 ritorna MDB Summer Radio con Alex Raccuglia e credo un ospite che già conosciamo, forse, non so. Non so che puntata farà, comunque. Volevo fare il bellillo che mi ricordavo di lui, però non mi ricordo che puntata è oggi. Vabbè, però sei andato un passo più avanti a me, perché devo dire che mea culpa, avevo proprio saltato, quindi ho ricordato soltanto l'evento notturno, perché poi è la live un po' più estemporanea, quella che comunque se non metti la sveglia magari te la dimentichi, mentre invece l'appuntamento con MDB Sama è assolutamente un appuntamento consolidato del nostro palinsesto, direi. Ah sì, scusami se ti ho scavalcato. No, quando mai, hai fatto benissimo, anzi voglio dire, anzi. Ah, ti piace essere scavalcato, Senti, a proposito, caro, visto che saltiamo di palo in frasca, io ho bisogno della tua consulenza, sì. Ma devi fare Don Francesco in questo caso, non è scientifica la consulenza, mi devo confessare perché faccio pensieri impuri, padre. Fai pensieri impuri e no. Quella pizza con l'ananas, no. Quella devi fare 150 Ave Marie e frustarti dove sei tu un pochino. Fai no, ma questo pensiero è peggio, perché oggi sto guardando con, sto facendo pensieri peccaminosi sulla ministra Azzolina. Sarà che ha detto una frase che io sibillinamente ho misinterpretato? Sai, raccontami questa cosa, perché ho recuperato un po' di notizie, però ci ho capito e non ci ho capito, e ho visto anche lei. Comunque sì, racconta un po', dai, sii molto esplicativo da questo punto di vista, perché conta che ne so un cacchio di questo. No, dai. No, guarda, è semplice, basta riassumere l'antefatto con una piccola frase, cioè che per la maturità si faranno gli orali in classe. Ok, allora questa l'avevo capito. Perfetto. Come ha detto lei espressamente, lei spera nell'orale in aula. E io stavo pensando di prendermi un secondo diploma al volo. No, basta fare l'esame. Poi se non lo prendi, pazienza. L'importante è tentare. Sì, andare lì da privatista, no? Si fa ancora in tempo. Cioè, guarda, io voglio provare a fare l'orale. Come si chiamava quel film tremendo di quella commediola italiana, sempre della gente che tipo a 40 anni si ritrova a fare l'esame di maturità? No, immaturi. Sì, Madonna, voglio. Sì, che poi, tra l'altro, è il nome del gruppo WhatsApp dove ci sono i miei ex compagni di classe. Bellissimo. Sì, io un giorno parlerò con la persona che ha creato questo gruppo e gli spiegherò in privato e senza usare le parole cosa penso di queste idee, però che ci vuoi fare? Ragazzi, nel frattempo vi riporto una chattata one to one con Peppe Rizzard che diceva, sempre in riferimento alla domanda di prima, cioè come un aggettivo per le ore della live notturna di Runtime by Night, cioè, come la possiamo definire? Le ore e basta, e questa è una citazione per i quarantenni. Le ore. Citazione pregna. Le ore. È tutto un fatto di pregna, esattamente. Vabbè, pregna. Carmine. Piccolo Pippo cucciolo eroico. Scusate. Sì, mamma, scusate. E questa è la citazione di Clerks. Che... Ragazzi, io da ex commesso di videoteca ricordo sempre che il ruolo non determina il comportamento. Io questa frase veramente me la tatuerei sulla schiena, insomma, ma so che non la capirebbe nessuno. Tu da ex commesso di videoteca, ma veramente non ti sono capitate le scene che descrive lui? Avete qualcosa di nuovo? Dove trovo le novità? Madonna mia, è tremendo. Guarda, io te ne posso raccontare 10.000 di situazioni di questo tipo, ma tra quelle divertenti anche quelle imbarazzanti, anche quelle fastidiose. Rapidissimamente te ne riassumo tre. Dici, Randall. Uno fu un cliente nuovo, cioè uno che entrò per la prima volta in negozio. Si guardò un attimo timidamente intorno, poi si lanciò. Il negozio era stato ingrandito da poco tempo, era diventato un negozio enorme perché oltre a essere una parte videoteca, in una parte facevamo anche vendita di, diciamo, sia di bianco che di nero, quindi elettrodomestici, hi-fi e cose del genere. Parliamo dei tra il 99 e il 2000 come epoca, ok? Okay. Facemmo anche una saletta, diciamo, per di film per adulti nuova, molto grande, che era praticamente al lato opposto di tutto il negozio, che erano quasi 400 metri quadri. Comunque arrivò questo tizio, mai visto prima, fece, sai, la parte prima di guardare l'espositore delle novità, eccetera, e poi, insomma, assicurandosi che non ci fosse poi nessuno, si lanciò a vedersi la sua bella saletta dei film per adulti. Dopo un minuto, due minuti, tre minuti, quello che è, esce dalla saletta e mi domanda: scusa, ma la cabina dov'è? Però, ah, guarda, grande. Non abbiamo la cabina, perché hai dedotto che dovremmo avere una cabina? E hai scoperto che tutte le videoteche del circondario ce l'avevano, e voi no. E noi no, tutti il peep show e noi no. Dico, boh, vabbè, e questo è uno. Un altro fu una cosa, un tipo di quelli un po' più, come dire, fastidiosi, perché era proprio il tipo, tra virgolette, sul maniaco andante, che entra trafelato quasi col fiatone nella saletta dei film sempre per adulti. Dopo alcuni minuti esce sempre col fiatone e ti guarda e ti dice: ma che, non ce l'avete i film Kiponi? Dico: no, non abbiamo film, non abbiamo documentari, gli ho detto, per fare una battuta smorza atmosfera. Al che mi guarda e fa: ah, posso usare il bagno? No, è rotto. E così finisce quest'altro racconto. Coiponi. Vabbè. È un altro bellissimo. Scusate, ma io... Vai. Adesso mi è venuta la curiosità del film coi poni, però, sai? Allora, Marco, te lo spiego io. Non si tratta di zoofilia, ma no, c'è una corrente del fetish con donne o uomini vestiti da cavallo, ma proprio con gli zoccoli finti. Ah, ok. Sì, cioè, guarda, io non so se all'epoca ci fosse, sinceramente, Carmine. Te lo dico perché uno dei miei migliori amici ha avuto una videoteca, era proprio sua. Okay. Ah, allora, guarda, non eravamo così specializzati. No, grazie a Dio, no. No, ma scusa, per curiosità, ma anche voi la sezione porno era separata con la cortina di perline come al sud, oppure voi che state un po' più al nord avevate, che ne so, una porta? No, sì, c'era una tendina, perché insomma come dire, l'obiettivo di quella tendina non era proprio a perline, era fatto tipo, sai quelle cose di quel materiale sintetico che sembrano salsicce, non so neanche come descrivertelo. Perché l'obiettivo è che entri e esci da quella varchi quella porta senza far rumore. Comunque c'era un cliente, ragazzi, questo era bellissimo. C'era un cliente affezionato, quindi anche uno di quelli che c'aveva poi uno spacco totale, proprio di quelli che te facevano divertire. C'aveva proprio nessun freno inibitore, gliene fregava un cacchio, no? C'aveva, come si suol dire, la faccia come il culo. E che faceva delle cose assurde, tipo ogni tanto entrava nella sala dei film porno, no? Che sempre, vi ricordo, stava dall'altra parte del negozio. E lui aveva, diciamo, una serie di suoi, come dire, pregiudizi. Non voleva mai rischiare di scegliere, manco per sbaglio, film che fossero, diciamo, a contenuto gay. Ok? Perché evidentemente qualche volta si è sbagliato, o si è sbagliato il commesso che l'ha servito dandogli un film per un altro, e questa cosa deve averlo traumatizzato. Allora lui voleva essere assolutamente certo di scegliere film etero, quindi che faceva? Comunicava con te dall'altro lato del negozio, in epoca per smartphone e tanti altri, cioè non c'era la tecnologia neanche a volerlo fare, quindi lui cosa faceva? Ti urlava e ti diceva, sapete che in videoteca sceglievi i film in base a ogni film aveva un numeretto di riferimento in modo tale che tu lo potessi ritrovare nell'archivio e consegnare al cliente. Allora lui cosa faceva? Ti urlava: oh, ma che è 124 e chi i froci? Questo ad altissimo volume. E tu ovviamente, se e quando c'erano altri clienti nella videoteca, sprofondavi nella vergogna. Però insomma, ragazzi, gli anni più belli della vita mia, questo devo dire. E pensare che oggi ti saresti goduto, nel caso, i film con gli unicorni, che sarebbe stato bellissimo. La sezione unicorni. Vero, cioè, e oggi va tanto, categorie... vanno gli unicorni, ma quelli là che ce l'hanno in generale, dritto, o cosa. che ce l'hanno attorcigliato. Vanno su qualsiasi cosa, cioè c'è l'unicorno e poli, diciamo polimateria, cioè non so se è porno, anche non so, c'è cioè il Doom Guy, cioè l'unicorn guy, cos'è? Il Doomicorn. Sì, Doomicorn, me lo sono è il premio Twitch di Doom e me lo sono riscattato tipo il primo giorno che ho comprato Doom. E hai continuato così, questa cosa bella, tanta stima. E fermi, che mica è finita, perché cioè, a parte sbloccare la parte iniziale che è la skin, ci sono poi tutti i pezzi aggiuntivi che sblocchi andando avanti del gioco, tipo la lama che fa l'effetto arcobaleno. Poi, siccome il Doom Guy è presentato su una specie di piedistallo, quando fai il login c'hai anche il piedistallo con gli arcobaleni, le nuvolette disegnate, è tutta una roba, cioè veramente la locura di Boris, è bellissimo. Quindi vedi, cioè, tutta questa parte di moda unicorno trasversale, traseverso, vabbè. Però c'ho di pony, no, manchi i pony, manco quello ce l'hai avuto, che tristezza. No, quelli che, ripeto, noi eravamo nazional popolari, noi avevamo quello che funzionava, insomma, che per, diciamo, per il cinema mainstream era, noi avevamo la regola della V, Vanzina, Van Damme, cose così, insomma, se c'era la V funzionava. E... sconti. Gli sconti, quindi. No, beh, insomma, non esageriamo. Nell'ambito del nazional popolare, chiaramente. E diciamo che i nostri capisaldi dell'epoca per il settore adult erano, ovviamente, Rocco Siffredi. Andava tantissimo Jessica Rizzo in quegli anni, anche perché è de zona, perché è de zona Fiano Romano, quindi comunque si aveva il suo seguito, la sua claque locale, il personaggio. Queste cose qua, insomma, non c'era la ricercatezza in nessuno dei settori della videoteca, insomma, anche perché il nostro pubblico non era adatto a mostrargli come dire, a presentargli delle chicche, quindi poi noi ci segnavamo tutte le cose che dicevano, le gaffe, anche poi le critiche quando ci riportavano un film che non avevano capito, perché sai, ci sono quei clienti che si fanno consigliare, c'erano quelli che sceglievano. Ma sto sempre parlando di porno? O in no, generale? No, in generale, no, cinema normale. Cioè, se non ho... scusi, ma questo film non l'ho capito. Guarda, ma negli anni 90 c'era la trama nei porno, Marco, quindi, E anche lì c'erano le scuole di pensiero, perché c'erano quei clienti che assolutamente no trama e quelli che invece assolutamente trama, e allora magari ti chiedevano che c'ha la trama, quando arrivavano lì col numerino in maniera un po' più timida rispetto al cliente di prima, ti dicevano: ma questo c'ha la trama, ma perché io lo voglio con la trama, non lo voglio senza trama. Che è un po' come con i videogiochi oggi, ma questo c'ha la trama, cioè vedi, videogiochi is the new porn. Guarda, invece sul fronte. E ci sono gli unicorni. Dai, questi unicorni, però, cioè, sono proprio come dire, monotemati, monocorde. Ci sono gli unicorni e la trama. Unicorni, unicorni e monocorde, qui, eh. Dai, facciamo una puntata sugli unicorni. Così ce la inventiamo. Ma sì, uno speciale di runtime, mi sembra giusto. Secondo me, più gli unicorni, come c'ha scritto Leo Vargian. Unicorni, giusto, grande Leo. Bello, bello, Leo. Vi racconto questo aneddoto invece legato a, diciamo, al cinema mainstream, quindi a quello non per adulti. In quegli anni uscì un film abbastanza, diciamo, come dire, di secondo piano, però insomma gli demmo rilevanza, che si chiama Hamlet 2000, che era una ricostruzione, diciamo, in chiave moderna dell'Amleto, però utilizzando in buona parte i dialoghi originali dell'opera, un po' come hanno fatto col Sindaco del Rione Sanità due anni fa, insomma, cioè ambientazione adattata all'oggi, contesto realistico, però la scrittura, il copione era quello della scrittura teatrale originale. Hamlet 2000 era fatto più o meno così. Un cliente lo noleggia, quando me lo riporta, ho detto: ah, beh, allora ti è piaciuto il film? Anche perché quando gente noleggiava film che non andavano tantissimo, io cercavo sempre di capire. Intanto salutiamo Girasole, cercavo di capire, insomma, se gli fossero piaciuti per suggerirgliene altri. Dico: beh, allora ti è piaciuto questo film? Dice: insomma, un film strano, tutti che parlavano con sta voce imbostata, e io che me pensavo che era un thriller. Ragazzi, e vi assicuro che in quei momenti mantenere aplomb non era sempre facile, perché io poi c'avevo anche 18 anni, 19 anni, c'avevo anche un po', diciamo, come dire, la faccia come il culo, anche di non essere diplomaticissimo, quindi ogni tanto partiva anche la risatona, insomma, e questa era la vita. Cioè, mi hai dato un'idea, io stasera me lo vedo, stavo vedendo il cast. Cioè, c'è Ethan Hawke, Kyle MacLachlan, Bill Murray, cioè, c'è un sacco di gente. Sì, no, ma ve lo vedo, ragazzi. Sì, sì, è un film assolutamente. Fotografia non è un film de sé, però non era neanche, insomma, un filmone blockbuster. Vabbè. Ecco. Vabbè, bello che nella scheda c'è scritto regia Michael Almeida, soggetto William Shakespeare, e grazie al cazzo. ma perché il soggetto è quello, non è stato riadattato, diciamo, non è una trasposizione in qualche modo. Vabbè, ma sai, quello era il periodo, che c'era il momento che a Branagh gli era presa la cosa che rifaceva Shakespeare. Beh, c'era Hamlet di Branagh, che uscì in due videocassette, per farvi capire il malloppone. Ma quello rifaceva la Roma di Shakespeare in contesti storici diversi, perché voleva dimostrare al mondo che le tragedie di Shakespeare non hanno età né collocazione storica. E quello che uscì fuori fu una tragedia, infatti. Minchia, cioè più che palle anche, cioè, bello. No, ricordo che ce lo fecero vedere a scuola, quello lì di Romeo e Juliet, però non ho ricordi, non so il perché. Ma allora, quello con DiCaprio? Sì. Ma quello non è Branagh, però. Quello è un orrore e basta. Madonna. Oh, salutiamo anche Alex Raccuglia, che ci ha raggiunto. Ciao Alex. Invece non so se ricordate Titus. Non l'ho visto. Quello è un po' più particolare, perché è un po' più, come dire, è un po' più de sé. In quel caso, se ti capita, ripescalo. Vabbè, chiusa questo excursus sulla vita del videotecario che fu, perché se no veramente mi sale la tristezza. Carmine, visto che ci siamo, un flashissimo, in poche parole, come sta andando sto Covid? Perché io qualcosa ho letto, evitiamo di ammorbarci, ma diamo il lato utile di Runtime. Bene, ma non benissimo. Allora, abbiamo, continua la curva discendente, in pratica abbiamo una cinquantina in meno, c'è chi dice 10, c'è chi dice 50, perché comunque alcune regioni non hanno ancora fornito i dati, infetti meno di ieri, quindi comunque cala il numero dei contagiati, 437 vittime ancora. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, ma questi sono gli infettati di 2-3 settimane fa, anche di più. Sì. Stavo vedendo il numero dei guariti, abbiamo sempre 87 persone in meno in terapia intensiva, che voglio dire, buona cosa. Sto cercando il numero dei guariti, sono invece a 3000, quindi sono aumentati 270, più di 2000 guariti in più rispetto a ieri. Beh, sì, diciamo che la situazione particolare di questo virus è che chi si ammala come si deve poi ha una prognosi lunghissima. Scusate, quasi 3000, 2943 guariti. Caspita, dai, questo è un bel dato. Questo è un bel dato. Sono curioso di sapere invece perché Alex dice: scusate il suo accesso tardico, ma si stava un po' piangendo, credo che volesse scrivere addosso. Volevo capire se perché stava codando duro come nei giorni scorsi o se per qualche altro motivo. Mi raccomando, mantieniti sano e forte, perché stasera c'è da fa, Alex, quindi insomma dai stasera... Alex, prima della diretta ti chiamo, dai, facciamo così. Bra. Comunque volevo, sì. Vai. No, volevo dire una cosa, non ci dimentichiamo che anche al di fuori del nostro pianeta c'è un intero universo, e in particolare per il 29, verso fine mese, è previsto l'avvicinamento di un asteroide. Se avete sentito, il tanto noi sempre lo cerchiamo quasi sempre questo asteroide, c'è sempre, dice, non si avvicinerà troppo alla Terra, però si chiama, aspetta un attimo che recupera, i giornali tisano l'asteroide, sì. Che sfiorerà 1998 OR2 si chiama, di 1,5 km di diametro, quindi neanche tanto piccolino, però c'è una caratteristica. Se andate a vedere le foto, c'ha la mascherina, ragazzi, c'ha la mascherina sta asteroide, ma non si fida manco lui. No, comunque dice, andiamo a fare sta visita alla Terra, però c'è sto problema qua, fammi parare il culo, meglio, più che altro dice, però ora l'ho messo su MDB di Original One, andatela a beccare, guardate la foto, c'è la mascherina, solo da sta foto non si capisce bene se è un FFP2 o un FFP3, voi che dite, ragazzi? No, sembra P3. Più P3, è vero, si deve, sì, tutti i pulviscoli interstellari, sì, ma si con deve, valvola deve senza valvola? No, senza valvola. Ok, quindi ci protegge. Sì. Però quando ho visto sta notizia di te, che cazzo? Sta arrivando preparato, ragazzi. Ragazzi, è arrivato in chat Roberto Tomaiolo che ci linka un articolo di Fanpage che parla di Napoli. Maddaloni, ennesima azione contro le antenne dei cellulari, praticamente credendo, poi sentite qual è l'ipocrisia, hanno lasciato senza cellulare migliaia di persone perché hanno bruciato un ripetitore credendo fosse del 5G. Se era 4G però va bene, quindi mettiamo un cartello, io sono 4G così non mi molestano, cioè io non... vabbè ragazzi. Ma ragazzi, questo movimento popolare anti-analfabetismo funzionale che sta spingendo la gente a dire attaccate un access point wifi e chiamatelo test su umani 5G. Sì, ma guarda, quella goliardia... Io non so se voi l'avete fatto o quanto smanettaste all'epoca. Potrei. Agli albori dell'802.11b, quindi insomma proprio le primissime reti wifi, quello che io facevo a casa ma anche in ufficio era rinominare le nostre reti, soprattutto quelle guest, tipo camionetta Digos 01, tutte queste cose qua, perché era divertente far imparanoiare la gente. Aspettate un attimo, ragazzi, che c'ho la vedetta qui. Voi avete... Io non mi posso spostare come Marco, quindi mi sono arruolato una vedetta. Un attimo che la vado ad aprire. È un rumore brutto. Sì, secondo me l'ha aperta. Secondo me la tiene prigioniera nello scantinato e le fa prendere un'ora d'aria. E vennero fuori gli altarini di lobby, che in realtà sotto. Allora, ragazzi, qui abbiamo la piccola vedetta lombarda, letteralmente, che ora ci dirà fra un po' cosa sta succedendo fuori. Saluta. Buonasera, ragazzi. Ciao, bentrovata. Ciao, piccola vedetta lombarda. Dopo tutta questa introduzione noi abbiamo un sacco di aspettative, non ti voglio mettere ansia. Sì, allora vai a vedere fuori e riportaci cosa sta succedendo. Fuori? Sì, perché qui abbiamo Marco che ci dice dal terrazzo cosa... Io non mi posso spostare, vai. Ok. Intanto Roberto Tomaiolo in chat ci chiede, ma il Pizzi è sull'asteroide? No Roberto, il Pizzi è l'asteroide. Leo Argion invece ci dice, nessuno batterà mai Martin Luther King. Questa vince. I have a signal this afternoon. Vabbè. Ecco, abbiamo notizie da... Eccoci. No, ragazzi, da cosa succede dalla finestra sul cortile qua. Dimmi un po'. Allora, ragazzi, qui tutto tranquillo, tranne il signore del balcone di fronte che è Gualdi. Sì, forse non riesco a riconoscerlo, però sta facendo dei video strani con un cane. Sì, è Gualdi. Questo è quello che ho visto. È lui. No, io non ho cani, devi sapere che voi vi trovate in un fiocco di anomalia spazio-temporale. Quindi, dalla finestra di casa vostra vedete quella di Gualdi. Ciao Gualdi. Secondo me il video del cane, però, no, non sono io perché non ho cani. Però rientra in... Ma se lo stai facendo rimbalzare a inizio puntata? No, l'hanno fatto rimbalzare i tecnici, cioè non è che vanno, faccio rimbalzare i cani per vedere il terreno, posso uscire, sono i tecnici che stanno su strada. Ecco, lui fa già come Fontana, scarica la responsabilità sui tecnici. Comunque ho visto, secondo me questa, questa cosa del cane e del video, secondo me finiranno su una categoria apposta degli porn. Ma è io, vero. Secondo me io starei attento a questo video. Io sento anche dei bambini che urlano. Che, Ci sono dei bambini, sì, ma sì, non si vedono. Non si vedono, li sentiamo solo. È per coprire il rumore del cane. Il rumore del cane, esatto. D'altra parte, ragazzi, è quasi ora di cena, è ora di metterli in cottura, è giusto? È vero che siamo a 15 km da Bibbiano qua, però comunque siamo a 15 km da Bibbiano, quindi... Non ci abbiamo ancora queste abitudini culinarie. Vabbè, non 15 km ancora arrivano freschi. Ma sì, se li abbattono prima ancora meglio, così non ci becchiamo la salmonella. Invece i pipistrelli crudi, no? I pipistrelli. Il pangolino, quelli... crudo, ragazzi. Il pangolino, madonna. No, non so se avete visto l'immagine dei mercati. Che sono lì a Wuhan, sì, i cosiddetti wet market, ma è una cosa assurda. A parte che sarebbero illegali proprio i pangolini, però comunque sono ricercati sempre perché si dice che fanno venire il cazzo duro, queste cose qua. Però cioè, cioè è inquietantissimo quei mercati. E non me li immaginavo, tipo delle macellerie, aree, invece no, è una roba inquietantissima. Cioè, ti giri, vedi l'interiore di animali dovunque, cioè, mamma mia. Stavo per dire una cosa di un cattivo gusto terrificante, ma mi trattengo perché sono un padre di famiglia e ho mio figlio in braccio. Capisco, okay, però questo è OGM, quindi lo devi fare. Quello è il sì, no, dopo, cioè del backstage, ve lo dico. Oh, Girasole ci fa notare. 23. Esatto. Girasole ci fa notare che adesso ci manca solo che tutti quanti mangiamo hot dog, visto che è quasi ora di cena e manteniamo il fil rouge di questi discorsi, insomma. Sì. Ma io forse stasera quanto ci mancano i panini all'esterno di casa, quanto ci manca. Puccio, ragazzi, per favore, indossa ragazzi, il cappello di divulgatore scientifico e quando sei pronto, poi facciamo prima l'intervento che ho interrotto e chiedo scusa, leggi l'ultimo commento di Roberto Tomaiuolo e prepara una consulenza scientifica perché non ne sapevo niente. Dicevate, scusa. Vado, avanti. Sì. Dalla finestra, di fronte a Marco, cosa stavate dicendo? Per andare via la piccola vedetta, dai. Ragazzi, è stato un piacere, scappo, a lavoro. Ciao. Buon lavoro, ragazzi. Allora, grazie. Buon lavoro. Ok, i 50 euro stanno fuori per aver detto che è stato un piacere. Dopo... ciao. Ok. Io continuo a dire che Lobby ci deve delle spiegazioni, però... Sì, noi ci siamo fatti tutti dei voli pindarici sulla tua doppia personalità mentre eri di là. Doppia personalità. Sì. Doppia, mi sottovalutare. No, beh, sono molte di più, tipo split, capisco, però insomma. Mi avete ricordato che devo finire, cioè me l'ha regalato mia moglie, ma devo ricominciare a leggerlo che avevo interrotto. C'è un libro che si chiama Una stanza piena di gente, che parla di un caso di personalità multipla. Da qui hanno tratto un film che credo sia stato rimandato causa coronavirus, dove DiCaprio fa tutte le personalità di questo tizio e sono tipo 15-16. Se non gli danno l'Oscar stavolta si suicida, ragazzi. Vabbè, però l'hanno già fatto con Split, dai, pure lì erano tipo 20 e passa, quindi. No, ma quella, vabbè, è un film di fantascienza, di supereroi, anzi. Sì, cioè, perché in realtà ricordiamo che Split è il secondo film di una trilogia che parte con Unbreakable. Vabbè, spoiler. Sapete che Unbreakable è stata la prima litigata che ho fatto con mia moglie? Perché era un film di merda? No, io l'ho adorato. No, allora, premessa, l'ho adorato anch'io. Il problema di quei film che Shyamalan faceva in quegli anni è che lui ti dava in qualche modo ragione di credere di vedere un certo tipo di film, in realtà ne vedevi tutt'altro. E la gente, diciamo, meno aperta di mente usciva dalle sale incazzata. Come il film The Sign, in cui credevano tutti che dovesse parlare di alieni. In realtà no. In realtà parla di alieni alla sì, però nel modo molto diverso. Si aspettavano che dal crop cycle corrispondesse il disco volante che scendeva, ecco. Vabbè, ma poi sai, hanno inventato proprio la definizione, lo Shyamalan twist. Certo. Il cambio di Shyamalan, non ho mai capito come cacchio si pronuncia. Shyamalan, me lo ripeterò fino a stasera, non adesso. No, io in pratica faccio sub vocalmente. No, stavo parlando di film con mia moglie e dissi: senti, questo è bellissimo, non lo so se ti piacerà, ma la cosa migliore è il finale, in cui, e le ho raccontato il finale, mia moglie ha cominciato a capire da quel momento che io sulla questione spoiler sono l'uomo più inaffidabile del mondo, perché sei pericoloso, non ci faccio caso. Sì, ma difatti mo che se avete notato su Prime hanno messo Colombo. Allora, quando è uscito, ho chiesto a mia moglie: ma tu l'hai mai visto? Lì, avendo qualche anno ha di scoperto me. L'America. No. Così, fatto, no, sai, qualche volta in televisione. Ho fatto: vabbè, amore, di questo possiamo parlare tranquillamente, perché tanto chi è l'assassino te lo dicono all'inizio. Beh, sì, in effetti. È proprio anti-spoiler. Esatto. Hai letto? Sei pronto? Ti sei, posizionato il cappello di divulgatore? Dici. Sì, pare sia vero che in pratica nei testicoli degli uomini si riscontra una maggiore concentrazione del coronavirus, pare che si rifugi lì. Scusa, perché hai specificato nei testicoli delle donne, no? Sì, alcune secondo me. È discriminatore sto cacchio, è sessista sto virus. Cioè, qua i social justice warrior secondo me si stanno incazzando sul serio, perché sono uomini, cioè. Anche il fronte di liberazione popolare della Giudea. Ecco perché tutto qualcuno questo. Mi diceva l'altro giorno: fronte di liberazione giudaico. Parolai. Dicendo, sì, in realtà c'è un motivo per cui. Perché a quanto pare al virus piace il caldo, e una delle zone più calde del corpo maschile è esattamente quella. Aspetta, momento. Quindi mi stai dicendo che a maggio col caldo il virus non va via? Questa è una. Potenziale puttanata che sta girando dal. Perché? Cioè, non ci sono, no, non ci sono le prove. Una certezza scientifica che a maggio. Cioè, non ci sono le prove. Maggio, il primo di maggio va via. Non ci sono le prove. Cioè, fino a una determinata temperatura prospera. Cosa accade dopo quella determinata temperatura? Non lo sappiamo. Possiamo partire dal presupposto che, siccome altri virus a temperature più alte diventano perlomeno meno contagiosi, questo segue lo stesso trend, ma non è sicuro. Però posso dire una cosa io, uno dei motivi per cui si tende a pensare che il virus sarà meno aggressivo con la bella stagione non è dovuto al virus e alla sopravvivenza del virus nella temperatura più o meno calda. Il discorso è che lo stile di vita delle persone nei mesi caldi li rende meno vulnerabili alle infezioni in generale, è un discorso diverso, è l'ospite che è meno vulnerabile nei periodi caldi ed estivi. Ma dici tu più docce la gente? No, non solo, anche il fatto che sei meno soggetto a qualunque tipo di agente esterno, fondamentalmente non ti ammali perché spalzi di temperatura minore anche. Beh, dipende, io ho l'aria condizionata a manetta spesso, quindi ragazzi. E ora muori. Cioè, io sono riuscito a prendermi la tonsillite a luglio qualche anno fa, ragazzi. Sì, ma quest'estate sarà importantissimo sanificare i filtri dei condizionatori d'aria, sì, ragazzi. Infatti, c'è anche questo discorso sull'aria condizionata, se potrà diffondere o meno il. Cioè, allora, è una buona scusa per filtrare una volta per tutte, nel dubbio. Però, come non sto seguendo dal punto di vista scientifico cosa è emerso. Vai Carmine. No, pare che, no, in realtà non c'è un risponso univoco. Ci sono studi che dicono che con una temperatura più alta il virus diventa meno contagioso o scompare, perché semplicemente sopravvive con più difficoltà. E altri studi che dicono: ma questa affascinante teoria da dove l'avete trovata? Perché le prove fatte in laboratorio poi non vuol dire che replicate in ambiente naturale hanno la stessa hanno lo stesso effetto. Sono condizioni controllate. Esatto, quindi diverse, in pratica stiamo affrontando un problema un po' diverso. Non sono ecologicamente valide. No, io sulla questione dell'aria condizionata stavo leggendo, perché tra virgolette mi tocca da vicino, perché siccome io ritengo che perlomeno la mia azienda ritiene che da metà di maggio inizio giugno ritorneremo ad andare in ufficio, a Bari andare a lavorare con l'aria condizionata spenta a luglio non è esattamente una buona idea. Ma ti garantisco nemmeno a Roma o altre città. Vabbè. Senti, invece in sottopianura padana identico, anzi peggio. Sì, c'è un'umidità umido, tipo acquario. No, voglio potete immaginare. Senti Carmine, ma se è vero che questo virus si annida nelle gonadi, no? Le gonadi sono in provincia di Salerno. Esatto, scientificamente parlando, cioè, ponendo la domanda in termini medici, ammazzarsi di pippe aiuta? Sì, ma diventi cieco. Forse aiuta a diffondere il virus. Secondo me aiuta a diffondere il virus, non vale niente. Basta lavarsi le mani dopo, no? Dipende. Durante anche. Che poi una pratica che mi auguro che sia insomma di comune uso a prescindere, poi non lo so. Lubrificarsi con la mucchina. Anche. Ah, ragazzi, sì. Se vi capita, guardatevi il video di Barbascura X sulla fabbricazione autonoma della mucchina, che l'ho trovato illuminante. Vabbè, lui è un chimico. Il video di chi, scusami? Barba Scura X. Barba Scura, ok, no, perché anche Strelli che ti facciamo vedere, sì. Sì, sì, no, no, sì, ho capito perfettamente che non avevo sentito, no, perché anche il chimico di quartiere, aiutatemi, Bressanini ha fatto un video su come fare, esatto, il disinfettante in casa le prime settimane di psicosi, visto che insomma era più raro delle mascherine all'inizio, la mucchina. No, io ho scoperto questa cosa vedendo il video di Barba Scura, che è l'alcol, quello al 95%, che è quello che ci servirebbe per fare la mucchina, diluito con la glicerina, la cossigiata, eccetera, eccetera, normalmente andrebbe comprato dai distributori di prodotti per la chimica in tutta Europa, tranne in Italia. In Italia lo vendiamo anche al supermercato, nel resto dell'Europa no, perché hanno paura che se lo bevono. Però noi in Italia possiamo andare al supermercato e comprare. E quanta gente è morta di alcol bevuto al 95%? Nessuno, ragazzi, siamo una specie superiore. No, d'altra parte, scusami Carmine, ma senza l'alcol al 95% il limoncello come lo fai? Ecco, io da astemio questo problema da molti anni ho smesso di pormelo. Ah, ecco. Soprattutto dopo aver provato il limoncello anni fa di mia madre, che credo che la stazione spaziale internazionale venga alimentata dal limoncello di mia madre, un paio di bottiglie e almeno 3-4 orbite complete le fa. Parlando di infusi e di distillati, a questo punto non possiamo che citare il concerto. Il concertino. È un liquore che non molto diffuso e conosciuto in realtà, che anche si fa sulla costiera, è un pochino come tutte le ricette, ogni caso ha la sua ricetta, comunque a base di orzo, caffè, varie spezie ed erbe. Lo facemmo anche in casa un paio d'anni fa, qua venne pure decente, dai, però cioè il Borghetti artigianale, che cos'è? Sì, non proprio, ma in realtà lo compri pure, molto, molto molto aromatico, no, è particolare. La consistenza è diversa perché è più denso, sì, è e cremoso. Densissimo. Soprattutto se lo metti in, come suggerito, proprio in congelatore, col bicchiere congelato, proprio stai lì mezz'ora che con la bottiglia piena, proprio praticamente verticale e non scende, quindi... Mi avete ricordato che io sono costretto, tipo per contratto, ad avere in freezer la bottiglia dell'amaro del capo. Nel caso venga il desiderio a mia moglie, che voglio dire, non beve neanche lei, però. Però un amaretto ogni tanto. Io negli ultimi anni sono diventato sostenitore dell'amaro Iannamico, che è un amaro abruzzese, che è un po' dolce, nel senso che di amaro c'ha solo il nome ed è anche molto cremoso. Qualcuno lo associa alla Rossana, in realtà no. Però, insomma, se vi piace il genere, potrebbe essere quasi una via di mezzo tra bere un amaro e bere il concertino che ha citato Lobby, ecco. Sì, perché è molto, molto dolce, però non tanto stucchevole. Non a livello di essere stucchevolissimo, anche se è piuttosto dolce. Mi avete ricordato che esiste la variante del limoncello fatto con la banana. Lo chiamano bananino. Me l'hanno fatto assaggiare una volta prima di smettere di bere e credo sia uno dei motivi per cui non bevo più. E guarda, ci può stare. Una volta in una pizzeria che adesso non c'è più, per tornare a citare Fiano Romano che associavamo in precedenza a Jessica Rizzo, c'era una pizzeria napoletana, tra l'altro gestita da napoletani, quindi all'epoca, parliamo degli stessi anni della videoteca, quindi 20 anni fa, e era raro a trovare una pizzeria napoletana che facesse la pizza alla napoletana, comunque lì la facevano. Una sera con degli amici a fine degustazione, a fine cena, chiedemmo un amaro. Il cameriere ci disse, gli chiedemmo cosa avesse e lui ci declinò i classici, compresi i limoncelli e vari, e poi dice: poi abbiamo un'altra cosa, il limoncello al basilico, una cosa che facciamo noi. Noi ci guardiamo, diceva: ve lo faccio assaggiare e ve lo offro io. Questo è l'incoscienza dei 20 anni in cui, esatto, ti bevesti pure il cherosene. Ci porta questa cosa. Non so se cioè, è stato come bere il pesto. Alcolico poi. Però ma no, non lo sentì neanche l'alcol, perché complessivamente era una cosa improponibile. E lui tornò da noi tutto entusiasta dopo che l'avevamo degustato, cioè, beh, allora com'è col sorriso? E noi non ce l'abbiamo fatta a smontargli questo sorriso, però non siamo riusciti neanche, come dire, a mentire spudoratamente, perché proprio ci guardammo e dicemmo: particolare. Che è come quando dice un amico: no, la tua amica è molto simpatica. Esatto. Com'è bella, è un tipo, stessa tipo, cosa. Esatto. Allora, intanto sappiamo che Simone Pizzi è felice come una Pasqua, perché da, a partire da dopodomani, Dinzu, che è il ristorante cinese giapponese o you can eat, che chiunque di voi di Runtime sia stato a Monterotondo sicuramente ha conosciuto, comincia a consegnare, a fare la delivera del sushi a domicilio. Quindi ovviamente è come se finisse il lockdown per Simone in questo momento, la gioia. E io ci sto sfottendo i miei amici di Mentana, che è il comune limitrofo, perché lì non consegna. Scusate. No, io invece non sono stato portato a Dinzu. Siamo stati, c'era pure Marco, in una pizzeria, tra l'altro pure buona. Cioè, mi ricordo erano buoni i fritti, i dolci, ma pure la pizza. Sta parlando di Margherita. Bravo, esatto, Marco, mi veniva. Vabbè, sì, è una catena in realtà. No, non fa anche cose discrete. No, ma... no. Quello che sta a Santa Maria, che catena è? La, Margherita è una catena? Sì? Sì, è un franchising. Cioè, è una catena, tipo davvero. Ma dai. Sì, sì. No, vabbè, non è una catena locale, c'è solo a Roma, però è una catena. Che catena? Mannaggia. Vabbè, comunque abbiamo mangiato là ben 2 anni fa e mezzo. Sì. No, quando siamo partiti per la Foresta Nera, per la Germania. Per la Germania, tu stavi venendo in Puglia, io e te ci siamo scambiati il posto. No, ragazzi, invece, parlando di Netflix, ma adesso vi spiego perché volevo fare questo volo pindarico. Fondamentalmente leggevo che dall'inizio della quarantena Netflix ha guadagnato la cifra importantissima di 15,77 milioni di abbonati, che magari non è tantissimo se facciamo il paragone con il numero di abbonati che ha raggiunto Disney Plus dal lancio in Europa, però insomma, per una piattaforma con una fanbase già consolidata e che esiste da tanti anni, incrementare di 15 milioni di abbonati in poche settimane è comunque un risultato importantissimo. Ma perché lo dico? Lo dico perché oggi, e qui faccio appello anche a Lobby, è uscito l'ultimo episodio della quinta e penultima stagione di Better Call Saul. È la Madonna, cliffhangerone. Vabbè, per forza, insomma, non si ci si poteva aspettare diversamente. Proprio una cosa alla Hotline Miami, chi ci ha giocato proprio. Però vabbè. Non so, forse lo stiamo seguendo soltanto io e Lobby, non mi è io chiaro. Io devo iniziare a vederla la quinta, sto fermo la quarta. Ok, devo dire che non facciamo spoiler, però mi ha stupito veramente, veramente tanto. Io non pensavo che il personaggio di Kim Wexler cambiasse così tanto. Non so se era previsto all'inizio, perché se è vero che la deriva di Jimmy verso Saul è ovviamente la trama della serie, e sappiamo già dove cosa diventerà, perché conosciamo Saul da prima di conoscere chi era prima, e invece Kim, Lobby, senza spoiler, cosa diciamo? Però bisogna, senza dire spoiler, è difficile, cambiamento però... Bisogna vedere, cioè, con questo c'è la duplice lettura: quanto è cambiata lei perché vuole cambiare, quanto è una sorta di sindrome di Stoccolma, tra virgolette, capiscimi? Certo, infatti è quello che ci stiamo domandando tutti. Alla fine, chi ha cambiato chi? Dai, abbiamo 10 episodi ancora da vedere, che presumo all'incirca, considerando che sono in pre-produzione, in sceneggiatura eccetera, forse vedremo tra un anno e mezzo, adesso di preciso non saprei, però insomma credo nel 2021 a questo punto si chiuderà l'epopea e la parabola di Saul Goodman. Ecco, brutto quando sei abituato a goderti queste serie con una certa velocità e poi devi aspettare un anno. Sì, brutta pure. Io ho recuperato anche, mi manca solo l'ultima puntata, la sesta di Westworld, e io dopo la seconda ho detto, cioè, ambiguo rispetto alla seconda, nel senso, faceva fatica a seguire per alcune cose, però di principio delle cose ho detto ok, non è male, hanno esteso un pochino le cose, però bello come la prima stagione, no. E questa ha preso una deriva cyberpunk non male proprio, e diciamo si segue meglio, diciamo sono molto bravi a nascondere sotto il tappeto i plot hole, che sono lì palesissimi, però non però sono molto bravi a nascondere. Ci sono stato almeno un paio di scene, un paio di cose, ho detto no, wow, no, no, no, no, no, non la sto trovando male. Tu la stai seguendo, Puccio, ma sai? Sì, sì, io ho visto la sesta stamattina prima di iniziare a lavorare. In realtà la sesta riprende un attimo delle questioni lasciate in sospeso. Ragazzi, vi devo fare una domanda su Westworld, perché io all'epoca vidi la prima stagione, tra l'altro in lingua originale, mi piacque molto. Sì, sì. Mi sono sempre ripromesso di vedere la seconda e poi ovviamente adesso la terza, ma non ho avuto modo. Quindi vi voglio domandare, nelle successive stagioni di Westworld arriva Aaron Paul, quindi ci agganciamo in qualche modo indirettamente a Breaking Bad. Aaron Paul, che per me è il fregnetta, il fregnone Jesse Pinkman, visto che in quel ruolo è sempre stato particolarmente esaltato. Già capisco dove vai. No, la mia è una domanda, non è andare a parare. Esce dal personaggio che conosciamo, ed è un bravo attore? Sì. Non è una domanda pregiudizievole, giuro. Sì, sì, no, no, secondo me in Westworld 3 viene fuori bene, almeno finora. In realtà non compare in tuttissimi gli episodi, però ha reso bene. Sì, è molto, molto corale, quasi più corale degli altri, davvero. Perché bene o male tutti gli altri erano un pochino limitati in un certo spazio. Ora che ora che sei fuori dal parco. Vabbè, gli abbiamo spellato, ma vabbè. Alla fine della seconda si capisce. Sì, sì, sì. Però la bella che riescono molto a tenere tutte le parti in gioco, tutte qua, cioè non riesci davvero a dire bene o male, forse il cattivo qua è quello lì di Vincent Cassella, tra virgolette, però in realtà tutti quanti, la cosa bella è che hanno giocato molto bene secondo me sulla moralità, nel senso tutti quanti ci hanno hanno giocato molto bene sul non dire quello è buono e quello è cattivo, nel senso tutti quanti hanno delle buone motivazioni e fanno delle cose riprovevoli, quindi è interessante da questo punto di vista. No, ma anche, sì, anche il personaggio di Cassel, nella mia personale follia, cioè in realtà quando succede quella cosa che vedi nella quinta, ti fa capire che tutto sommato c'ha una sostanziale parte di ragione dalla sua, quindi vabbè, buttata all'estremo. E poi è davvero molto, davvero il cyberpunk fatto con non uscito dagli anni 80, proprio il cyberpunk uscito dagli anni che abbiamo adesso, perché davvero non dico verso quel mondo, non dico che è inverosimile che stiamo andando, non tanto per i robot praticamente indistinguibili da però tutto quel fatto della terza sui dati, su quella cosa là, sulla raccolta dei dati, sta roba là, davvero è un pochino quello che già stiamo vivendo, buttato un pochino più all'estremo, però non tanto così estremo da far sembrare che è una cosa irrealizzabile. Sì. Sta parte è riuscita molto bene, però davvero ci hanno voluto discutere, cioè si vede che comunque c'è un rimando forte a quello che sta succedendo adesso della Silicon Valley, eccetera, eccetera. Per me c'è il plot, forse non so, per me il più grande plot là adesso, che tutta quella roba che in realtà per me, cioè nella mia testa dovrebbe essere una cosa iper segreta, là sembra che ci vanno a fare le gite scolastiche, là il terminale a disposizione di tutti, che poi fanno quella cosa là magnifica per me della quinta stagione. Perché è semi segreta, cioè sì, è il tipico nascosto in piena vista. Esatto. No, perché serve per dare le soluzioni, ma non sanno cosa utilizza per dare quelle soluzioni, quindi è e cosa fa oltre a dare le soluzioni? Si fanno vedere lo strumento, non gli effetti, è quello che dice. Una parte di quello che fa, ma solo una piccola parte, quello che la gente insomma è disposta ad accettare. Tutto il resto ovviamente io quasi non la volevo vedere la terza, pure se comunque non sono uno tra i detrattori della seconda, sicuramente non ho fatto più fatica a guardarla, però non sono tra i detrattori, però ho quasi deciso di non continuarla Westworld. Poi pure merito un pochino di tu che ne parlavi, di tu Puccio ne parlavi, ma quasi me la recupero. Io in questo campo non faccio testo, a me se metti nella stessa serie intelligenze artificiali, io sono contento e quindi va bene così. Anche, anzi, ne avrai di cose da dirmi. Non dico che sono entrato da poco in questo, comunque, però comunque se ragazzi, no, di robe da leggere. No, ma da vi do un consiglio in realtà videoludico. C'è un giochino che adesso è uscito, hanno fatto anche la versione per Switch, ma lo trovate veramente a due soldi su Steam. Si chiama While True Learn. È un gioco che serve a introdurre i concetti dell'intelligenza artificiale, facendo però un'analisi storica, quindi partendo dai sistemi specialistici per arrivare al deep learning, spiegato come se fosse una specie di puzzle game. Se vi capita, se avete un po' di soldi da buttare, prendetevelo, perché è chiarissimo e serve veramente a capire quali sono i concetti e i limiti dell'intelligenza artificiale, dalla teoria iniziale fino ai giorni nostri, all'epoca dell'autoapprendimento. È interessante, serve a capirlo, fa un bel excursus storico, è un bel gioco, devo dire. E poi non annoia, è un bel puzzle, ci devi mettere. Come si chiama? Puoi ripetere? While True Learn. Fino while, a quando è while, vero? Mentre... Fino a quando è while true? È un cicoro while, è una citazione, esatto, informatica, anzi, vabbè, di programmazione. Vi interrompo un attimo perché in realtà volevo segnalare un prodotto audiovisivo su Disney Plus, visto che l'abbiamo nominato prima, che però non è né un'opera di fantasia né di narrativa, è uno dei documentari, non è all'interno di National Geographic, è uno dei documentari Disney, si chiama Imagineering ed è la storia dei parchi Disney in più puntate, per ora ne sono uscite 5, penso che ce ne siano almeno altri 2, quindi dalla fondazione della prima Disneyland ad Anaheim, dove io ho avuto il piacere di andare, fino all'apertura del parco di Hong Kong. Non è elegiaco, perché le cazzate che hanno fatto le sottolineano proprio con l'evidenziatore, gli errori di approccio, gli errori nella costruzione di alcune attrazioni, e ti fanno anche vedere come Disney abbia imparato nel corso della sua storia di costruttrice di parchi ad adeguare i prodotti che offre a un pubblico diverso da quello americano. Hanno fatto un esempio che mi ha fatto impazzire, che la casa stregata che c'è nella Disneyland di Hong Kong è completamente diversa da quella dei parchi americani e di Disneyland Paris, perché il concetto della morte per le popolazioni asiatiche è diverso dal nostro. Quindi per creare qualcosa che creasse timore, hanno costruito questa casa dove c'è la raccolta di oggetti di un vecchio colonialista inglese che è ancora vivo, che insomma è uno degli host della casa, che ha collezionato questi oggetti d'epoca in vari posti del mondo, e il suo assistente, che è una scimmietta, per fare un dispetto apre uno scrigno e questi oggetti si animano e ognuno è legato a una maledizione. Quindi hanno cercato di ottenere quell'effetto, però partendo da un presupposto narrativo completamente diverso, e devo dire è molto molto molto bello. Datevi un'occhiata, perché veramente vi fa capire molte cose sia della tecnologia che c'è dietro Disneyland, che è avanzatissima, sia dietro la filosofia che c'è dietro la costruzione di quelle attrazioni. Io l'ho trovato molto interessante. No, dicevo, per collegarci a una notizia, tra l'altro Disney che sta veramente veramente nei guai per il lockdown rispetto ad altre aziende, diciamo, del mondo della fantasia, perché molto del profitto e del business di Disney si basa sul fisico, quindi sui parchi a tema, sulle crociere. Disney, non sapevo facesse un business enorme con le crociere a tema. Poi ci vi devo dire, io l'ho scoperto con questa serie, io e mia moglie stavamo accarezzando l'idea, poi in realtà nostra figlia ci ha guardato, ho fatto no, io voglio andare a Disneyland, mi sembra più pratico, no? E poi ci sono, cioè, sempre l'importante è avere quale sia la catena di comando in casa, quindi esatto. Sì, no, ma è evidente che sono mia moglie e mia figlia in questo ordine. Okay. No, probabilmente nell'ordine opposto, ti potresti stupire. No, fidati, mia moglie ancora le redini salde. Sì, no, mia moglie riesce perlomeno sulla bambina a imporsi, poi immediatamente dopo loro c'è mio figlio, poi i gatti, poi io. E quindi, quella insomma, polvere, poi se avessimo la Roomba, che c'è un minimo di intelligenza artificiale, sì, però abbiamo la Dyson, quella a mano, quindi ah, ok, quella ancora riesco a controllare. E niente, quindi insomma, capito, la situazione mettiamoci anche i Disney Store, mettiamoci anche peraltro ESPN, che è il canale sportivo che la Disney ha comprato e che ovviamente non fa profitto perché lo sport è fermo, stanno veramente a rischio e si stanno comportando, malgrado siano una multinazionale con un fatturato enorme, si stanno comportando secondo me in maniera particolarmente, lo posso dire, squallida. Per esempio, diverse migliaia di lavoratori stranieri che lavorano nei parchi a tema Disney, perché non so se chi non c'è stato forse non lo sa, però nei parchi a tema Disney ha sempre assunto tanto personale nelle varie lingue di riferimento dei turisti attesi, quindi ci sono migliaia di italiani, per restare in casa nostra, che lavorano nei parchi a tema a Parigi, a Orlando, in tutte le altre location dove ci sono dei Disneyland e dei Disney World, e tutte queste persone sono state sostanzialmente messe nelle condizioni di non poter lavorare dal Covid, ma di non essere pagate dai parchi e di non avere nemmeno delle tutele o degli ammortizzatori, tant'è che le abitazioni dove vivono, che non so se sono fornite dal parco, ma sono comunque a pagamento. Sì, sono fornite dal parco, te lo dico, okay. Perché quando siamo stati ad Anaheim, cioè all'uscita ci fecero fare un questionario per i turisti europei e io in cambio chiesi: ma vi posso chiedere qualcosa? E chiesi di vedere il CED, mi hanno mandato a fanculo, però siccome c'era un ragazzo italiano, ho chiesto a lui: mi dici com'è lavorare qui? E lui mi disse: fantastico, ci danno casa, ci disse che praticamente fuori c'è una specie di residence dove alloggiavano. I compound. Quindi, all'americana, sì, insomma. No, diceva che era comodo, c'erano le piscine e così. Il problema è che adesso gli italiani e comunque tutti i dipendenti stranieri li stanno fondamentalmente cacciando da questi alloggi perché non vengono retribuiti e non pagano, di conseguenza non hanno quello che penso sia la detrazione, l'incentivo sulla busta paga, o il benefit dell'appartamento, quindi insomma io non ho parole. Senti, questa storia l'ho letta anch'io, però due cose: uno, a quanto pare che Disney però si è fatta carico delle assicurazioni sanitarie per almeno 4 mesi, leggevo, e in più c'è un problema di base che è la direttiva del rilascio dei prioritario dei dipendenti non di cittadinanza americana, è una direttiva nazionale, cioè a quanto pare è stato fatto intendere, è stato proprio detto alle aziende che uno dei prerequisiti per accedere poi al founding statale che verrà per la riapertura post-Covid è che si limitasse al minimo il licenziamento di cittadini americani. Che, oddio, non è una giustificazione. Beh, però... è il sovranismo alla Trump. Non è sì, che no, questa è cosa mi a proposito di Trump, che ha fatto? No, Trump, ovviamente, facciamo la sigla. Trump. Trump, lui sa perché in Italia ci sono molti. Cioè, la situazione è quella che è, mentre da lui è abbastanza rose e fiori. E. Sì, infatti lui ha detto, lo sa perché gli Stati Uniti, a differenza dell'Italia, ha chiuso gli aeroporti alla Cina già il 31 gennaio, ha tagliato la Cina fuori dagli aeroporti, non ha fatto più arrivare un cinese. Allora ha detto, quindi chi voleva fare gli affari con gli americani, chi voleva fare gli affari con gli americani dove sono andati in Italia. Solo ha dimenticato che l'Italia ha chiuso gli aeroporti alla Cina il 31 gennaio, lo stesso giorno, forse qualche minuto in più, forse quel minuto in qualche più. Ora dopo, qualche ora dopo, successo in quelle ore sono venuti milioni di cinesi qui a aspettarci. Comunque lui sa sempre tutto, non c'è niente da fare. Ah, che in realtà pare che fosse, cioè quel ban del 31 gennaio americano era limitato ai visti turistici, in realtà i cinesi che andavano negli Stati Uniti per motivi d'affari ci sono andati. Chiaro, ma triangolato. Comunque oggi mi suggerisce il Corriere, che è una cosa brutta, però mi suggerisce che ben 10 anni fa avvenne l'avvenimento del che fai, mi cacci? Lo ricordate? Madonna, fini con Berlusconi. 22 aprile 2010. Oddio, ragazzi, che l'avevo fai? Completamente rimosso. Io avevo rimosso proprio Fini dalla mia memoria. Anche io. Ma Fini si è rimosso da solo perché dopo. Sicuramente quest'anno non ho pensato a Fini fino ad adesso, dall'inizio di quest'anno. Ti può capitare di pensarci se vedi il film di Boris perché una sera ti annoi. Ah, sì. Tolto quello. Però alla fine io non l'ho visto da quando lo vidi in sala il film di Boris, dovrei rivederlo perché la serie l'ho per un periodo aveva ripubblicato tutto lo scibile, ma adesso l'hanno Che peccato. No, però ragazzi, veramente, fini, se ci pensate, no? Quella frase, che fai, mi cacci? Lì per lì no, sei il presidente della Camera, però dopo è sparito dalla circolazione, tra lo scandalo dell'appartamento a Monaco, l'uso del minivan che aveva fatto comprare appositamente, che poi usava la moglie per portare i figli al mare, insomma, fu... più ovviamente tutto quello che ha fatto scatenandosi di uscirono fuori subito dopo, insomma, in quel periodo. Strano, vero? Cose che succedono, sì, sì, quando piove sul bagnato, cose. No, ma molto la casa a Monte Carlo di fatti venne fuori sul giornale, che tradizionalmente è una pubblicazione neutra, non schierata. D'altra parte, se tu come però, dire, vai a pestare i piedi a chi controlla l'informazione in Italia, dopo te becchi storm sheet che ha nel cassetto. Viene a dire, se vai a pestare la merda, poi ti sporchi, normale. Certo, vabbè, ma d'altra parte, ragazzi, il dossieraggio è l'anima della politica. L'anima di meglio, vabbè, comunque, insomma, che dobbiamo fare, ragazzi? Che dobbiamo fare? Io dico una cosa, ragazzi, ci siamo portati a casa la nostra oretta e mezza anche oggi. Giustamente Pietro sta dicendo a Carmine che Pietro vuole la pizza, l'aspirapolvere, giusto? No, no, la pizza, ragazzi. Vuole la mi pizza. Sembra un motivo più che sacrosanto. Sì, sì, sì. Già svezzato, non... praticamente. No, allora, svezzato no, però mia moglie l'altro giorno stava iniziato a dargli un po' la mela grattugiata, la pera, il succo di frutta. Abbiamo provato con il biscotto. Abbiamo provato con i biscotti, se li succhia. Però ogni volta che vede una pizza, proprio butta le mani, come di mia, voglio io. C'è questa cosa. Massima stima per Pietro. Ragazzi, Peppe sì. Rizzard, sempre in chat 1-1, mi ha fatto riflettere dicendo una cosa. Questa cosa è tombale. Ha detto: se pensiamo che l'erede di Fini è la Meloni, ma porca miseria, la Mariolina. Mamma mia. Vabbè, ragazzi, prima di salutarci, vai. E che l'ultima cosa, l'avete visto a Bolsonaro 3 giorni fa che inneggiava contro il lockdown? Sì, sì, sì. L'avete visto? Che è uscito fuori dal palazzo. Ho sentito, insomma, che il Brasile continua ad avere incremento di casi e non chiudono niente. Non chiudo niente, o meglio, c'è la Corte Suprema e il Congresso federale che si oppongono. E Bolsonaro è uscito fuori a rincarare la dose ad un evento che hanno organizzato gli estremisti contro il lockdown, proprio con la polo rossa, con la panza da fuori. E mentre proprio scatarrava proprio l'alcol. Quindi negativissimo proprio al Covid. Sì, mettiamo sì, la sì, così. Forse c'è ancora speranza. Guardate quel video, è tremendo. Sì, no, l'ho visto un po' in difficoltà, in effetti. Anche tu sei in difficoltà. Stavo buttando gli occhi. E niente, la vuole proprio intera la pizza, la vuole proprio tutta. Su, è perché noi ci diamo Bolsonaro. Su, non c'è Bolsonaro, tranquillo. No, Bolsonaro, abbiamo l'app immune che ci salverà, vero Walter? Assolutamente ci salverà, perché affidarsi alla medicina quando c'è l'informatica? Esatto. Vabbè, ragazzi, prima di salutarci, però a questo punto, perdonatemi, Ziomsky dice: date una pizza a questo bambino, poi ognuno la interpreti come vuole. Povero. No, te la diamo margherita la pizza. Esatto, dai, buona. È il momento karaoke, ragazzi. Io non faccio un intro del brano che stiamo per ascoltare, però poi faremo un outro e ne parleremo diffusamente. Bene. Siamo pronti? Vai. Sì. Ciao a tutti, sono Davide Gatti. Per passotto, espressi e per risotto, parenti sotto sfrato. E bangla già tutto, ma dite antenne, radio, colle, antiratto, c'ha l'adesivi per tu scotto, calzoni con disfatto, i remi per canotto. Ma tu non ci stai più. Per bangla senza te, un po' me si sorprende, perché non dentifricio glitterato, l'assorbenti doppio strato, e il bangla manco sa che mai lasciato come un fesso, col cuore dentro un fosso, ma camperò lo stesso, l'amore c'ha diritto di recesso. Oh, giochi dama e filetto, c'ha pure regole per tetto, a merce col difetto, c'ha un sogno nel cassetto, per bangla c'ha tutto, cuffiette stereo, vasi, luci, antifurto, c'ha pure il frigo mezzo rotto, se scala sopra e sotto, addio pure a chinotto, ma tu non ce stai più. Senza te un po' mi si sorprende, perché non compro più il dentifricio glitterato, l'assorbenti doppio strato, e il bangla manco sa che mai lasciato come fesso, col cuore dentro un fosso, ma camperò lo stesso, l'amore c'ha diritto di recesso. Lascia tutto disponibile in digital download su tutti gli store più importanti, lo trovate su Spotify, credo lo troviate anche su iTunes. Loro sono i Paiata Funk, siamo orgogliosissimi, anche un po' orgoglionissimi di dare spazio, dare voce, dare microfono a questo brano del nostro stimatissimo Claudio Camilli e della sua band. Ci auguriamo di avere i nostri microfoni, Claudio, il prima possibile, quando l'emergenza lockdown finirà. Quando finirà questa emergenza lockdown? Quando potremo avere Claudio Camilli ai microfoni, Marco? Non lo so, non c'ho idea, non ce lo so, non c'ho idea. Comunque specifichiamo che è Pagliata con la J. Pagliata? Non volevo dire Pagliata, ci mancherebbe. Pagliata. No, no, però in Italia qualcuno potrebbe andare a cercare Pagliata, no, però la Pagliata con la J. Poi magari in una puntata enogastronomica spieghiamo che cos'è la pagliata, come spieghiamo che cos'è la coratella e così via. Che dite? Che sembra un piatto spagnolo, cioè c'è la paella, c'è la pagliata. E invece no. Enzo diciamo Bolsonaro. Quando fate sta puntata chiamate mia moglie, non me però, mi raccomando. Vabbè. Io faccio adesso. Vabbè ragazzi, fatemi salutare gli amici in chat che ci hanno fatto compagnia questa sera: Zio Mischi, Leo Vargion, Roberto Tomaiolo, Simone e Michela, che da padroni di casa hanno fatto invece da ascoltatori, idem per Alex Raccuglia e Davide Gatti, insomma tanti dello staff, Peppe Rizzard che ci ascoltava ma non era nella chat di Spreaker, Girasole e tutti quelli che, come Ciro Capasso che ci ha salutato all'inizio, e tutti quelli che simpaticamente non ammetteranno mai ma ci ascoltano, e siete sempre di più, ve lo ricordo, perché i nostri follower viaggiano a gonfie vele verso i 4.000, ecco, ma me la voglio segnare questo obiettivo, 4.000 prima della fine del lockdown. Se siamo a 3.150 ce la possiamo fare. Che culo. Oppure dobbiamo temere per la fine, per quando sarà la fine del lockdown, quindi non so cosa sperare di. Ai poster l'ardua sentenza, ai poster no, sono perché così siamo contenti. Siamo con il mondo dell'altro, abbiamo qualcosa di positivo di cui poter gioire, insomma. Assolutamente. E con questa battuta saluto Marco Gualdi. Ciao. E saluto Carmine Puccio Console. Ciao. E saluto Lobby Frontali, il nostro Francesco. Chi di voi ci sarà questa sera alla live notturna? Io ci so. Vi ricordiamo ancora una volta, Lobby, l'appuntamento delle 21. 21 è MDB Summer Radio. Non ricordo il nome della puntata, però non le recupero adesso. E alle 23:30 23:30 Runtime on the Night o Runtime the Notte. Questo format che ormai abbiamo inaugurato così de botto, senza senso, inaugurato Simone 3 settimane fa, però abbiamo deciso di dargli una sua entità propria e di continuarlo. Però gli dobbiamo spiegare che si chiamerà Le Ore d'ora in poi. Va bene ragazzi, un abbraccione, andiamo a preparare la cena, perché sennò poi da ascoltatori o da protagonisti rischiamo comunque di perdere i prossimi appuntamenti. Io vi abbraccio a tutti, ci vediamo alla prossima puntata di OGM. Oltranzisti, gastricamente maleducati, ma positivi nella vita, ma non malati di Covid, ma in Covid Edition, sempre live qui su Runtime Radio.